Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il nostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9 qui a Bruxelles. Un saluto dallo studio, da Annalisa e da Roberto Giava in regia. E in collegamento Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Annalise, buonasera cari amici radioascoltatori. Dunque, cari radioascoltatori, siete tornati quindi all'ascolto di Giro di Boa, come diciamo tutte le volte, come sempre, al passo con l'attualità. Dici bene, analizza il passo con l'attualità, infatti questa sera a Giro di Boa si analizzeranno i risultati dalle recenti elezioni politiche tenutisi il 6 maggio scorso nel Regno Unito. Nessun partito, come ci si aspettava, ha raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi e dunque per la prima volta dal secondo dopoguerra il Regno Unito sarà governato da un governo di coalizione. Dopo 13 anni di potere, vincendo 3 elezioni consecutive, i laburisti vanno dunque a casa, lasciando il numero 10 di Downing Street ai conservatori, che hanno raggiunto un accordo di governo con i liberal democratici. Con le nostre ospiti in collegamento cercheremo questa sera di capire come si è arrivati a questo risultato di governo, quali sono i fattori che hanno portato alla formazione di questo governo di coalizione dopo 70 anni ed ovviamente qual è il futuro che attende questo governo nel Regno Unito, ma anche e soprattutto sulla scena europea. Annalisa, ci presenti le due ospiti? Sì, dovrebbero essere in collegamento con noi, due ospiti, Gaia Cesare, giornalista, da 3 anni lavora per il quotidiano Il Giornale diretto da Feltri per la redazione esteri. In passato ha lavorato per internet, per il quotidiano ilnuovo.it, per la TV con il programma L'Antipatico in onda su Canale 5 e con Il Foglio. Ha coperto dal 2001 a oggi tutte e tre le ultime elezioni britanniche, quella del 2001 proprio dalla roccaforte di Gordon Brown in Scozia. Nel 2005 è stata inviata del giornale in occasione degli attentati terroristici a Londra. Buonasera Gaia, ci sente? Buonasera a voi, sì. E dovrebbe essere in collegamento anche la seconda ospite, è da Londra, Giada Vercelli, autrice con Monica D'Ascenzo del libro Donne sull'orlo della crisi economica, premio API per il libro dell'anno 2010, edizione Rizzoli, cura blog omonimo su Layweb di RCS, è stata la prima corrispondente italiana dal New York Stock Exchange e dal Nasdaq per Bloomberg TV e Sky TG24. È da oltre 10 anni è presentatrice e reporter da Wall Street, dalla City di Londra, attualmente collaboratrice del Sole 24 Ore. Buonasera Giada, ci sente? Buonasera a voi, sì, siamo in linea. Bene, allora Annalisa, dopo la presentazione degli ospiti non ci resta che iniziare e io avrei subito una prima domanda per entrambe le nostre ospiti, ma magari incominciamo con Giada. Volevo sapere, no, con Gaia, scusate, volevo sapere, sono pronti gli inglesi per un governo di coalizione dopo 70 anni di governo monocolore? Negli ultimi giorni sulle pagine del giornale leggevo un tuo articolo dove parlavi di un governo di lacrime e sangue. Potresti magari darci alcuni dettagli? Sì, in effetti la coalizione di governo che è nata in questi giorni, dopo una coalizione del tutto insolita per le abitudini e le tradizioni inglesi, è una novità. Una novità alla quale in realtà gli inglesi speravano di arrivare, perché anche dai sondaggi della vigilia era chiaro che l'elettorato era abbastanza spaccato, ma una novità che rischia però di spiazzare gli inglesi stessi. Non sono abituati alle coalizioni, non sono abituati ai compromessi, ma sono dei grandi pragmatici. E le trattative di questi giorni lo hanno dimostrato, due partiti completamente diversi tra loro, anche se con dei punti di congiuntura, i liberal democratici e i conservatori, hanno raggiunto un compromesso storico. Certo, appunto, hanno molte sfide da affrontare, Giada probabilmente saprà dirvi di più, e sono quelle economiche. Lacrime e sangue, i tagli di cui si è parlato in campagna elettorale, ma non a sufficienza. 6 miliardi di sterline è la promessa di tagli di questo governo, cominciata proprio oggi con il taglio degli stipendi sia del Premier che dei ministri. Giada, un tuo primo commento su questo governo di coalizione, lacrime e sangue anche dal tuo avviso? Sì, penso che Gaia abbia sicuramente centrato il punto perché diversamente rispetto a molti governi intorno al mondo, il Regno Unito ha poca esperienza di gestione di attività di governo quando non c'è una solida come dire, maggioranza da una parte o dall'altra. La struttura stessa del Parlamento, dove vediamo i due partiti, l'opposizione e il governo, che si oppongono in maniera come dire, geometrica, hanno in pratica evitato di avere una struttura del Parlamento a forma di semicerchio, di fatto fa capire quella che è la radice culturale di questo paese. Sicuramente si troveranno in difficoltà perché l'elettorato più facilmente sarà scontento di quelli che dovranno essere i tagli molto dolorosi al budget, che peraltro, come già dicevamo, sono stati preannunciati nella giornata di oggi, però dovranno metterci mano perché altrimenti sarà molto difficile far fronte alla drammatica situazione economica della Gran Bretagna. Di questo naturalmente mi piacerebbe parlare in maniera più approfondita. Prima riunione del governo guidato da David Cameron, e leggevo sul sito della BBC che il business secretary Vince Cable ha scherzato dicendo che, se non sbaglio, i suoi suoceri indiani gli hanno sempre detto che i matrimoni combinati a volte sono meglio di quelli che nascono per amore, e Cameron ha aggiunto che gli è stato detto che lui e Clegg apparentemente vanno più d'accordo di quanto andassero d'accordo Blair e Brown, e quindi lo stesso Cameron avrebbe risposto che a quanto pare le aspettative non sono molto elevate. Vorrei chiedere ad entrambe come vedete l'evoluzione dei rapporti tra i due, quindi tra il primo ministro e il vice primo ministro, dopo una campagna elettorale che è stata senza dubbio molto, molto dura. Sì, devo dire che anche Boris Johnson, il sindaco di Londra, oggi ha descritto questa unione come la nascita di un incrocio tra due razze, un bulldog e un chihuahua. Boris Johnson lo dice nel senso positivo, cioè con buone aspettative nei confronti di questa coalizione. In realtà quello che sta accadendo è che anche i giornali che alla vigilia del voto hanno dato il loro endorsement prevalentemente ai conservatori in gran parte, sia il Times che l'Economist che il Telegraph, giornali che a parte il Telegraph in questi anni avevano appoggiato Tony Blair, e dall'altra parte, mentre i giornali progressisti avevano dato il loro endorsement ai Lib Dem, ora tutti all'unisono si chiedono appunto che ne sarà di questa coalizione. In effetti ci sono alcune differenze, ci sono soprattutto alcuni punti del programma che comunque è stato concordato che devono essere ancora definiti meglio. Il pragmatismo dell'inglese di questa nuova accoppiata potrebbe lasciar ben sperare. Però non c'è da escludere la questione delle fronde interne. Molti conservatori più tradizionalisti sono assolutamente scettici, avrebbero preferito andare verso un governo di minoranza, e ce l'hanno con Cameron perché credono che abbia mancato un'occasione storica, quella di poter dare una larga maggioranza ai conservatori, e i Lib Dem, storicamente più vicini alla laburista, anche loro fremono al loro interno perché speravano in un accordo con i laburisti. E in effetti, Gaia, abbiamo visto che l'attribuzione di 20 seggi, di 20 posizioni all'interno del governo ai liberal democratici già ha iniziato a far storcere il naso ai falchi all'interno della fazione, della parte del governo conservatrice. Va detto, a mio giudizio, che ci sono quattro punti su cui si è articolata la campagna elettorale: l'educazione, la riforma delle tasse e l'economia, naturalmente poi la riforma elettorale. Mi sembra che in qualche modo i conservatori dovrebbero riconoscere, vista la maggioranza risicata che sono riusciti ad ottenere, che se Cameron è riuscito a diventare primo ministro, in qualche modo dovrebbero far passare diversi punti dell'agenda di Clegg, dei liberal democratici. In particolare mi sembra di capire che sia la cosa che più prema a loro e anche alla scabba che li sostiene a partire dall'Independent, la riforma elettorale con un referendum che chiami appunto a esprimersi la popolazione in proposito. Per quanto riguarda... Prego. Sì, no, Gaia, tu citavi la campagna elettorale, citavi appunto quali sono stati gli elementi più discussi durante questa campagna elettorale. Vorrei sapere quali sono secondo voi i fattori che hanno determinato la perdita dei 91 seggi per quanto riguarda i socialisti, e anche gli elementi che hanno determinato la la vittoria o comunque che hanno portato a guadagnare ben 97 seggi ai conservatori. Durante questa campagna elettorale immagino si sia parlato molto di crisi economica. Ha inciso o non ha inciso la crisi finanziaria che ha investito la Grecia da alcuni mesi e che ha visto appunto la mobilitazione, come i nostri amici e gli ascoltatori ben sapranno, dell'Unione Europea? Questa è una cosa che interessa agli elettori britannici e dunque automaticamente ai politici britannici quando fanno campagna elettorale, oppure no? Diciamo che l'esito di queste elezioni ovviamente è il frutto di concause. E gli inglesi erano stanchi di 13 anni, tre legislature consecutive di Labour, però Cameron in realtà non è riuscito a convincere fino in fondo la middle class, quella appunto che teme in realtà i tagli che verranno effettuati da questo governo. La Scozia in quest'ultimo periodo, roccaforte rossa, roccaforte del Labour, è terrorizzata. E, d'altro canto, appunto, la voglia di cambiamento appunto non si è però riversata completamente sui conservatori. Lo scetticismo c'è, l'Europa non credo che abbia pesato, alcuni temi come quelli europei non credo che abbiano pesato in questa campagna elettorale, salvo nella fase finale, in questo Giada probabilmente saprà dirvi meglio, cioè quando lo spauracchio della Grecia in realtà è piombato anche sul Regno Unito. La crisi economica ha pesato sicuramente, però questo in realtà ha fatto guadagnare qualche consenso a Brown, la paura di cambiare soprattutto, cambiare era proprio change, era proprio lo slogan di Cameron ispirato a Obama, non è stata così forte negli inglesi, che hanno comunque riconosciuto a Brown degli interventi abbastanza decisi poi nei momenti di crisi più grave. Sì, sicuramente Gaia, come dicevi, la crisi europea e anche per l'approccio poco europeista, se vogliamo, condiviso che esiste in Gran Bretagna, tocca in maniera marginale dal punto di vista delle tematiche. Va detto però che sicuramente le dichiarazioni che sono state fatte di recente da illustri economisti, in ultimo nella giornata di oggi Jean-Paul Fitoussi, che è presidente dell'Osservatorio francese delle congiunture economiche, e dicono che il Regno Unito potrebbe essere la prossima vittima del contagio che arriva dalla Grecia, dalla crisi fiscale, e dopo paesi come la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda. Abbiamo visto nei giorni scorsi l'impatto anche sul mercato obbligazionario in Grecia, naturalmente prima del salvataggio, i rendimenti sul bond decennale sono saliti al 12,3%, si tratta di uno scarto record rispetto al bond di riferimento tedesco. Questo significa che la fiducia naturalmente nel paese era azzerata fino a che appunto non abbiamo visto questo intervento da 750 miliardi di euro. Il debito sovrano nella zona euro sta rendendo difficile poi il compito delle banche centrali, sia la Banca Centrale Europea che in questo caso naturalmente la Banca d'Inghilterra, che cerca adesso di mettere fine a quelle che sono le misure di stimolo economico, e abbiamo visto i tassi sono rimasti, per quanto riguarda l'ultima riunione della Banca Centrale Europea, all'1%. Abbiamo visto però anche un quadro macroeconomico in cui abbiamo debole crescita che è risultato di consumi bassi. Il Regno Unito è riuscito a mettere a segno un più 0,2% nella crescita del PIL in questo trimestre, che è meglio rispetto a quanto abbiamo visto in altri paesi, però è comunque meno dello 0,4% del trimestre precedente. Quindi davvero la situazione è complessa, anche perché il deficit del paese è di 167 miliardi, e questo nonostante la svalutazione della sterlina, perché non dimentichiamo che la Gran Bretagna, essendo fuori dalla Unione Europea, ha potuto in qualche modo indirettamente, non in modo pilotato, avere un impatto diretto sulla svalutazione della propria valuta. Quindi sicuramente questi fattori di un'influenza della crisi greca e di quello che è stato il rapporto, no? Poi anche da parte della scelte politiche della Gran Bretagna stessa nel bailout, ricordiamo che è stato il paese che si è tenuto fuori dal voto per il salvataggio della Grecia, in qualche modo ha chiarito quelle che sono le posizioni del paese. Secondo me è proprio questo, cioè i rapporti con l'Unione Europea potrebbero essere uno dei maggiori punti di divaricazione fra i liberal democratici e i conservatori, perché Cameron in pratica sta seguendo un po' quella che era stata la falsa riga segnata da Margaret Thatcher nel 1984, aveva dichiarato ai leader europei che voleva i soldi del suo paese indietro, a indicare una mancanza di fiducia per l'istituzione europea. E invece non dimentichiamo che Nick Clegg, appunto il vice primo ministro, è stato ardente europeista, è stato anche al Parlamento europeo per diversi anni della sua carriera, e di conseguenza in qualche modo questi rapporti si sono un po' instabili, perché le posizioni sono profondamente diverse. Uno dei commentatori più vicini a Angela Merkel, che era un'altra signora rispetto al salvataggio della Grecia, ha detto che il Regno Unito ha fatto due passi indietro nei rapporti con l'Europa con queste ultime elezioni. Quindi forse è proprio questo uno dei punti in cui l'instabilità delle due posizioni politiche si farà più marcata. Direi ora di fare una pausa musicale e poi di ritornare sia sul tema dell'Europa, sia un tema di cui si accennava in precedenza, anche in apertura, il sistema elettorale e l'accordo tra conservatori e liberaldemocratici per un referendum sul sistema elettorale. Gli ascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa. Questa sera stiamo analizzando con le nostri ospiti i risultati delle recenti elezioni politiche tenutesi in Gran Bretagna il 6 maggio scorso. Ne parliamo questa sera con Gaia Cesare, giornalista per il quotidiano Il Giornale, e Giada Vercelli, collaboratrice per Il Sole 24 Ore. Se ne parlava prima della pausa musicale, vorrei ritornare appunto su questo tema, il tema dell'Europa, quindi dei rapporti tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. I conservatori e i liberaldemocratici si sono accordati affinché, hanno quindi fatto un accordo affinché quindi la Gran Bretagna non entri nell'euro, si sono altresì accordati, diciamo, per sottomettere a referendum eventuali trasferimenti di potere, ulteriori trasferimenti di potere dalla Gran Bretagna all'Unione Europea, anche se questo, con la recente approvazione del Trattato di Lisbona, non appare un problema, diciamo, per l'immediato futuro. E si sono altresì accordati affinché la Gran Bretagna possa essere, come il nuovo ministro degli esteri William Hague ha definito, un partecipante positivo negli affari europei. Vorrei chiedere però ad entrambe come secondo voi si possono conciliare le divergenze di fondo tra gli euroscettici conservatori e invece gli europeisti liberaldemocratici, e quindi, diciamo, l'euro rimane per la Gran Bretagna un'opzione sempre più remota. Gaia, vuoi cominciare tu? Non è un caso che William Hague, vecchia volpe dei Tory, sia stato messo al Ministero degli Esteri, e che proprio domani addirittura faccia il suo primo viaggio negli Stati Uniti, segno appunto che la special relationship con Washington resterà intatta. In realtà io non credo che, se è vero che sul fronte Europa le differenze tra i due partiti sono rilevantissime, e lo ricordava prima Giada, anche il profilo europeista di Clegg dimostra quanto antitori sia la sua storia e pro-Europa. Però di contro, e qui mi riallaccio alla tua domanda, in cambio appunto della conferma dello scetticismo del nuovo governo nei confronti dell'Europa, Clegg è riuscito a incassare il bottino più importante di questa elezione, quello per il quale aveva trattato fino alla fine, o almeno aveva finto di trattare fino alla fine, con i laburisti, cioè la riforma elettorale. Al momento sembra che l'accordo sia stato raggiunto proprio questo, la riforma elettorale, sul quale in realtà Tory e Lib Dem, quando il referendum verrà effettuato, avranno posizioni diverse e faranno campagna in maniera diversa. E questa è anche la cosa insolita di questa nuova coalizione. A fine maggio, per farvi un esempio, uno dei seggi rimasti non ancora assegnati di questa elezione a causa della morte di un candidato sarà ancora in ballo. Si svolgeranno elezioni e i Tory di David Cameron e i liberaldemocratici di Nick Clegg si fronteggeranno come prima di questa elezione, di questo governo di coalizione. Sì, credo che sicuramente, come appunto sottolineava Gaia, questo sia stato il do des più importante all'interno di questa nuova coalizione. L'accordo in pratica sta combinando un referendum su quello che è cosiddetto il voto alternativo, un nuovo sistema appunto, con la riduzione del numero di parlamentari, e questo porterebbe un taglio del numero dei partecipanti del Tories da 650 a 585, questi erano appunto i dati che venivano proposti. Tutto sommato sono misure che sono facilmente raggiungibili, accordi che sono facilmente raggiungibili, anche perché ci sono altri fronti su cui, se permettete, torno a battere sul tema economico, non perché appunto sia un argomento che seguo in particolare, ma perché ritengo che sia effettivamente quello su cui ci potrebbero essere le difficoltà maggiori. I tagli secondo me sono ormai dati per scontati da tutti, lo stesso Mervyn King, che è il governatore della Banca d'Inghilterra, ha appunto visto dato il plauso a queste proposte che sono state avanzate nei giorni di oggi, e sono già previsti per il 2010, come si diceva, fino a un valore da 6 miliardi di dollari, per soprattutto guadagnare di nuovo la fiducia dei mercati finanziari e anche naturalmente delle agenzie di rating, che ultimamente sono espresse su diversi paesi della zona dell'Europa del Sud in maniera appunto preoccupata. I liberali democratici prevedevano già in campagna elettorale che questi tagli sarebbero stati un rischio troppo grande per l'economia, e Clegg era stato proprio adamantino su queste misure. Un altro fronte di accordo che è stato già avanzato, quindi prima ancora di parlare di posizioni relative all'euro, da George Osborne, che è il più giovane peraltro chancellor del regno, ha soltanto 38 anni, ha avanzato appunto nuove proposte relative alle tasse di eredità. Si prevede di aumentare la soglia della tassa di eredità fino a 1 milione di sterline, e secondo i liberali democratici questo era stato un regalo, sarà un regalo a 3.000 più ricchi del paese. Di fatto sembra che anche su questo fronte ci sia poco accordo. Ci sia invece un po' più di accordo su quella che la revisione delle tasse sulla National Insurance, che era stato un forte elemento di battaglia da parte dei laburisti invece, che appunto hanno sottolineato, sia i Tories che i liberali democratici hanno mostrato uno sdegno per questi aumenti, perché ritenevano che fosse una tassa sul lavoro e sui lavoratori. Quindi su questo fronte invece ci potrebbe essere uguaglianza di vedute. Sicuramente la maggiore uguaglianza di vedute fra i due partiti sul fronte economico è il fatto che sia le spese la spesa pubblica sia da preferire rispetto all'aumento delle tasse. Resta il fatto che i liberali democratici hanno proposto di aumentare la tassa sui redditi personali a una soglia di 10.000 sterline, e questo significherebbe ridare 700 sterline a chi ne ha più bisogno, secondo il loro programma, e tassare invece gli immobili di estremo lusso, una misura che va esattamente in direzione opposta rispetto a quella dei conservatori. E poi potremmo continuare a elencare sul fronte della politica fiscale diverse differenze, quindi ritengo che prima si debbano confrontare su queste questioni prima ancora di andare a decidere come presentarsi all'Europa su posizioni più importanti e più di pensiero unitario, che è necessario, come la moneta unica per esempio. E entrambe avete fatto riferimento alla possibile riforma del sistema elettorale. Come ben sappiamo, il Regno Unito ha un sistema maggioritario puro. Ora, con i risultati che hanno portato queste elezioni, sappiamo che non c'è stato nessun partito realmente vincitore, anzi il Partito Democratico, Liberal Democratico, ha raggiunto il 23% dei voti, cioè quasi un quarto dei voti espressi sono andati a questo partito, ma ha ottenuto soltanto il 9% dei seggi in Parlamento. Dunque vi volevo chiedere, secondo voi, entrambe avete citato il referendum che probabilmente sarà organizzato da questo governo, in cui i liberal democratici e i conservatori hanno due opinioni diverse. Secondo voi il popolo come voterà a questo referendum? Gli inglesi hanno veramente voglia di cambiare questo sistema, che forse non è profondamente democratico e giusto? Come abbiamo visto, il 23% dei voti equivale al 9% dei seggi in Parlamento. Gaia? Sì, in effetti questa elezione ha segnato la fine del bipolarismo e gli elettori hanno spinto parecchio per questo, mentre i sondaggi appunto della vigilia elettorale pronosticavano l'hung parliament, gli inglesi, questo parlamento appeso senza maggioranza assoluta, gli inglesi continuavano ad orientarsi non verso due soli partiti come era avvenuto storicamente, ma verso tre. Ora, sempre rispetto ai sondaggi della vigilia, che in genere in Gran Bretagna sono sempre molto attendibili, gli elettori pare siano orientati verso il cambiamento del sistema elettorale, che loro in qualche modo anche reputano responsabile, non del, di alcuni dei, dei mali del paese, compreso appunto i 13 anni considerati da alcuni troppi di governo del Labour. Quanto però questo malcontento nei confronti del maggioritario poi si traduca in una reale sconfitta in caso di referendum da parte del maggioritario è difficile da dirsi, per diverse ragioni. I Tory, come dicevamo prima, faranno campagna elettorale contro i loro stessi alleati di governo in caso di referendum, lo hanno già detto chiaramente, sono fermamente convinti che il maggioritario sia il sistema più adatto al, ad un paese storicamente bipolare. E, di contro, i Lib Dem rischiano con questa coalizione, sono in realtà probabilmente il partito più a rischio dopo questa esperienza di governo, perché da una parte si sono inimicati gran parte dell'elettorato laburista, che sperava in un accordo con il partito laburista, con o senza Gordon Brown, o con molta probabilità senza Gordon Brown, e dall'altra si sono inimicati anche una parte, dicevamo, appunto interna al partito, quella più progressista, che non riesce ancora a digerire l'accordo con i conservatori. Come finirà, quindi, insomma, è difficile da pronosticare, però sarà dura. Volevo ricordare anche a questo proposito un altro dei punti verso i quali si muove questa coalizione, che è una svolta rispetto al passato. Il Parlamento, che in genere veniva sciolto in qualche modo, anche se l'annuncio veniva fatto dalla regina, lo scioglimento del Parlamento veniva deciso dal primo ministro, in base all'accordo, al nuovo accordo siglato con i Lib Dem, in realtà sarà un Parlamento a termine fisso. Le nuove elezioni sono già in qualche modo state preannunciate, si svolgeranno nel maggio del 2015. Il primo ministro quindi perde in qualche modo questo potere, nonostante poi il 55% dei parlamentari potrà eventualmente fare una mozione per sciogliere le Camere. Giada, un commento sul referendum? Ma appunto, come ti dicevo, ritengo che il referendum sia il maggior fronte di confronto per i due partiti, un po' per le posizioni opposte che Gaia ricordava in questo proposito, un po' perché diciamo deve essere lo scotto da pagare per i conservatori per riuscire a formare un governo di coalizione insieme ai liberal democratici. È vero che il paese nell'arco dei passati 5 anni di fatto ha vissuto una estensiva campagna da parte dei media a favore di questo nuovo sistema elettorale, che appunto prende in considerazione le quote proporzionali in maniera più significativa rispetto al bipolarismo puro. Eppure è vero però che in una situazione, in questi frangenti di difficoltà, la risposta da parte della City a Londra in particolare, ma naturalmente di tutti i mercati finanziari, era di una forte preoccupazione dell'instabilità interna di questo governo, proprio perché sono anni speciali, anni difficili, gli anni della ripresa, in cui una unità di fondo sulle determinate tematiche esista come è necessaria. Adesso, se i partiti riusciranno effettivamente a dimostrare che su tematiche di fondo essenziali alla sopravvivenza del paese, perché attenzione, non dimentichiamo che per l'appunto il Regno Unito potrebbe essere uno dei paesi che più facilmente sono contagiati dalla crisi fiscale. Nel 2009 è stato uno dei 5 paesi con il deficit oltre il 3% del PIL, insieme alla Francia, la Grecia, l'Irlanda, la Spagna e il Regno Unito. La ragione per cui la Francia e il Regno Unito non si trovano in difficoltà come altri paesi del Sud Europa, e anche l'Irlanda in questo caso, devo dire, nonostante la grossa sofferenza del suo mercato immobiliare, la bolla che è scoppiata nel mercato immobiliare, è il fatto che sono paesi con un indebitamento del settore privato più contenuto. Resta il fatto che il deficit è così ampio che la situazione è estremamente difficile da gestire. Quindi, se questo governo della coalizione mostrerà di avere una linea di fondo credibile, valida e efficiente ed efficace su queste tematiche, allora probabilmente la popolazione civile si ritroverà più invogliata a prendere in considerazione la eventualità di un governo proporzionale, altrimenti è difficile che in questi frangenti scelgano di virare in questa direzione. Ascoltatori, stiamo commentando i risultati delle recenti elezioni politiche in Gran Bretagna e il governo di coalizione tra conservatori e laburisti, con due giornaliste, Gaia Cesare de Il Giornale e Giada Vercelli, collaboratrice del Sole 24 Ore. E, Gaia, Giada, vorrei tornare un attimo appunto al discorso cui accennavo prima della pausa musicale, quindi il Partito Laburista che ha perso le elezioni ha iniziato il processo per scegliere il nuovo leader del partito. L'ex ministro degli esteri David Miliband ha annunciato che si candiderà per la carica. Vorrei chiedervi quali sono secondo voi altri papabili candidati e quale futuro si prospetta per il Partito Laburista per i prossimi 5 anni. Dunque, il Partito Laburista in realtà è uscito da questa elezione, diciamo, meno ammaccato di quanto non si credesse all'inizio. Negli ultimi 2 anni i sondaggi davano i tori per vincitori certi e in realtà il partito è riuscito a recuperare. Certo ha pesato la discutibile leadership di Gordon Brown. Un premier che tra l'altro ha mancato proprio alla fine l'accordo con Nick Clegg, pare a causa anche di antipatie personali. Brown pare che nel privato fosse un iracondo e che non ha saputo gestire fino in fondo la trattativa con Clegg, anche se molti credono semplicemente che Clegg fosse già orientato per l'accordo con i Tori e utilizzasse semplicemente i laburisti per alzare la posta nell'accordo coi Tori. Esce di scena un premier che però ha fatto la storia in qualche modo di questi ultimi 13 anni e come cancelliere dello scacchiere prima è stato il protagonista appunto del boom economico della Gran Bretagna e della City. Il processo di elezione del nuovo leader sarà delicatissimo, però sarà una grossa occasione per i laburisti, perché in realtà se questo governo di coalizione dovesse fallire, il Labour avrebbe una chance storica. Intanto appunto potrebbe raccogliere il dissenso non solo nei confronti appunto del partito di maggioranza relativa, cioè dei Tori, ma anche dei Lib Dem, degli elettori Lib Dem delusi, che potrebbero ritornare alla casa madre, cioè appunto alla casa laburista. E poi avrebbe la chance di trovare finalmente un leader all'altezza delle sfide, insomma, anche di comunicazione della Gran Bretagna di oggi, un successore all'altezza di Tony Blair, che per i suoi successi, devo dire, finora non ha avuto rivali all'interno del Labour. Miliband è un suo delfino, soprannominato il cervellone, però potrebbe trovarsi di fronte uno sfidante di grande rilievo, che è il fratello Ed, addirittura più giovane di lui, ha 40 anni, mentre il fratello ne ha 43, già all'interno del governo come ministro dell'ambiente, molto gradito e tra l'altro vicino anche agli ambienti, diciamo, browniani, quelli anche più tradizionalisti della scuola laburista. Quindi sarà una sfida Miliband contro Miliband con molta probabilità, ma non è detto che poi non si facciano vivi dei tesi massimi come Ed Balls, altro candidato presunto. Sarà una bella gara e il Labour potrebbe comunque tornare a sperare nel caso in cui questa coalizione fallisse. Sì, per l'appunto sicuramente David Miliband, come dicevi, è il più papabile dei candidati al momento, anche perché è quello che ha avanzato la sua candidatura insieme a Ed Balls. Peraltro va detto che nel 2007 alla BBC lo stesso Gordon Brown aveva definito David Miliband il maggior talento all'interno del partito. Sicuramente ha un pedigree importante, il figlio maggiore di un teorista marxista, Ralph Miliband. Naturalmente questo vale anche per il fratello, anch'esso uno dei papabili candidati, Ed Miliband, cui facevi riferimento. Non si esclude Alan Johnson, non si escludono anche le candidature di Andy Burnham e poi ricordiamo invece che la vice del partito, che attualmente sta guidando ad interim i laburisti, Harriet Harman, ha già deciso di non candidarsi. Mi sembra una scelta importante perché non era stata esclusa la sua candidatura in un primissimo momento, anche perché lei era stata una delle dure e puri del partito, vicina a Gordon Brown, e probabilmente l'eclissarsi di Gordon Brown, non soltanto proprio come ruolo ma come figura all'interno del partito, ha causato anche questa decisione da parte di Harriet Harman, che peraltro a Londra era stata ribattezzata in maniera forse poco simpatica dai suoi critici, Hattie Harperson, parafrasando un po' il personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, proprio perché aveva questa grinta legata alle tematiche del politically correct, del politicamente corretto da portare avanti a tutti i costi. Quindi forse questa è la rosa dei candidati più papabile, adesso naturalmente staremo a vedere se non si fa avanti appunto anche il presidente della SSA, perché potrebbe essere anche lui uno dei nomi più importanti, più in vista all'interno della sinistra britannica. Un'ultima domanda, siamo ormai in chiusura, dunque rimane veramente pochissimo tempo, abbiamo una manciata di minuti, volevo un'ultima battuta da entrambi, volevo fare un esercizio di confronto, forse un paragone un po' semplicissimo. Consentitemelo, un paragone fra il sistema italiano e quello inglese, il sistema politico. Due gli elementi per aiutarci in questo confronto: l'età dell'attuale primo ministro inglese sono 43 anni, la stessa età del suo vice e la stessa età aveva Tony Blair quando divenne primo ministro. Il secondo elemento per questo confronto sono i dibattiti elettorali. In campagna elettorale in Gran Bretagna, se ne sono visti con tutti e tre i maggiori candidati. Una battuta finale su questi due elementi per fare questo paragone semplicistico. Giada, cosa ne pensi? Ma questo, guarda, è un argomento che mi sta vicino, mi sta a cuore, perché ne abbiamo parlato nel blog del libro Donne sull'orlo della crisi economica. La cosa relativa ai dibattiti politici naturalmente mostra e denota una presa di coscienza, una presa di responsabilità da parte dei leader di partito. Io credo che sia uno strumento di servizio al cittadino essenziale, che prova l'intenzione da parte dei leader politici di mettersi di fatto al servizio dei cittadini. Tra l'altro, uno degli aspetti di maggior successo di Cameron è stato proprio quello di ribaltare nel suo primo discorso le domande, chiedendo ai cittadini che cosa potesse fare lui per il paese, una impostazione quasi kennediana, diciamo, no? rispetto ad altre posizioni più rigide che abbiamo visto. Sicuramente quindi ritengo che sia una tradizione molto solida e molto consolidata nei paesi di matrice anglosassone. Abbiamo visto che anche naturalmente negli Stati Uniti e anche in Francia, devo dire, ci sono stati dei dibattiti politici fra i candidati presidenziali molto importanti e molto seguiti. Ci sono stati tre in Gran Bretagna, quelli più appunto importanti e più seguiti. La cosa che mi è piaciuta vedere in questi dibattiti è che si andavano un po' a sradicare quelle che sono le appartenenze ideologiche dei vari partiti. Ho sentito in questi dibattiti Cameron parlare di economia verde come opportunità, ho sentito Gordon Brown parlare di basse tassazioni sui bonus per evitare che appunto il business, soprattutto del settore bancario, della Citis emigrassero all'estero. Di conseguenza credo che siano non solo un'occasione elettorale, ma una vera occasione di confronto per i partiti. Se ci fosse anche in Italia probabilmente ci sarebbe più trasparenza su quelle che sono le idee di fondo. Gaia, un'ultima battuta? Sì, devo dire che esattamente dalla Gran Bretagna ci arriva una lezione di dinamismo, di capacità di ricambio. La vecchia guardia di entrambe le formazioni al governo e poi di quella che oggi è all'opposizione è rimasta a lottare fino alla fine, però ha mandato avanti le prime file, quelle più giovani e quelle che rispecchiano in qualche modo di più il dinamismo del paese. Per quanto riguarda i dibattiti televisivi, ovviamente sono la dimostrazione di un'apertura al confronto che spesso in Italia dimentichiamo. E tra l'altro devo ricordare che Cameron è stato molto criticato sotto questo aspetto, addirittura il principale finanziatore del Partito Conservatore, il vicepresidente, che ha messo oltre 5 milioni di sterline in questa campagna elettorale, era convinto che fosse che il partecipare al dibattito televisivo avrebbe favorito gli avversari. In realtà in qualche modo questa previsione si è confermata, eppure Cameron non ha desistito e è andato anche lui in prima fila a metterci la faccia, come si suol dire. Volevo solo chiudere con un riferimento anche rispetto a quello che ha detto già da prima. C'è solo una cosa in cui in realtà sembra che ci assomigli, che Gran Bretagna, Italia e forse qualche altro paese si somiglino troppo, è l'esclusione delle donne. Harriet Harman, lo diceva prima Giada, si è fatta indietro modestamente nella lotta per la leadership del partito laburista, è l'unica donna di peso del nuovo governo, Theresa May, agli interni, scelta proprio per evitare le critiche feroci nei confronti del partito conservatore per la mancanza di donne al governo, e diciamo che questa è una sconfitta per tutti, e Gran Bretagna e Italia si assomigliano molto anche in questo. Annalisa? Io non ho più domande dallo studio, non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, Gaia Cesare, giornalista per Il Giornale, e Giada Vercelli, collaboratrice del Sole 24 Ore. Un ringraziamento dallo studio per il vostro interessante contributo alla trasmissione di questa sera. Speriamo di riavervi presto ai nostri microfoni e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia e buon lavoro ad entrambe.